Ascoltatrici e ascoltatori di Radio Exalge, ben ritrovati, benvenuti. Sta per iniziare una nuova puntata di Casa da Paes Radio Edition. Io mi chiamo Nina Terruzzi e sono ospite virtuale nell'area di Exalge, che è però un luogo fisico e adesso accessibile a tutti, tutti i giorni, in via Francesco Ferrucci 5 a Milano. Vi invito caldamente a fare un giro sui social, vedere gli appuntamenti della settimana, prenotarvi viste le limitazioni ovvie e andare a vedere un po' che cos'è, che cosa fanno le persone coinvolte in questo bellissimo progetto attivo da più o meno un anno. Ogni venerdì dalle 19 alle 20 va in onda un'ora di jazz e derivati. L'idea dietro questa trasmissione è dare spazio soprattutto all'ascolto della musica senza per forza dover dare troppe informazioni in merito ai brani. Se avete domande o se volete mettervi in contatto con me, potete scrivere a casadapaes@gmail.com e cercare Boccherini24 Casa da Paes su Facebook oppure Casa da Paes su Instagram. Il brano da cui partiamo stasera è il pezzo con cui si apre Effetto Carsico, disco del trombettista friulano Mirko Cisilino, e il brano che ascoltiamo si intitola Autoritratto. We'll be right back. Dancy Clear Ends è un brano da Recon, album del Jim Black Trio, trio guidato dal batterista statunitense Jim Black con al contrabbasso Thomas Morgan e al pianoforte Elias Demeschede. Questo disco è del 2019, come quasi tutti i brani che ascoltiamo stasera, per coincidenza. E il prossimo, infatti, è anche lui dello stesso anno, è un quartetto guidato da Tomeka Reed al contrabbasso. Con lei ci sono Mary Alverson alla chitarra, Thomas Fujiwara alla batteria e al basso Jason Robke. Questo è il secondo album registrato in questa formazione, con appunto alla guida Tomeka Reed, e il brano si chiama RN. Thank you. When I was younger, I thought music came first, and now that I've gotten older, I realize it's only a reflection of the images of the people I love and being with God. Quando ero giovane pensavo che la musica venisse prima di tutto e adesso che sono diventato più vecchio realizzo che è solo un riflesso delle immagini delle persone che amo e di essere vicino a Dio. Queste sono le parole di Steve Lehman, compositore e sassofonista alla guida di The People I Love, album da cui abbiamo appena ascoltato un brano che si chiama Curse Fraction. Le persone che Steve Lehman ama e che sono coinvolte in questo disco sono Craig Tabor al piano, Matt Brewer al basso e Damion Reed alla batteria. Mentre il prossimo disco è di un trio di persone che sicuramente si stima, sono Michele Rabbia, Gianluca Petrella e Eivin Arset. Questo disco si intitola Lost River e noi ci ascoltiamo Fluvius. Thank you. like a mouse has got the cat by the tail. Tittle, tittle, tittle, tattletale. Liar, liar. Sticking with you would bring me standard. Surfing on promises of lighter times. Higher stakes, clearer minds. Ooh. Liar, liar. Under the surface, got no candor. Fluvius, i britannici Nubian Twist, questo è il loro ultimo disco recentissimo di un paio di mesi fa, si chiama Freedom Fables e abbiamo ascoltato Tittle Tattle, che è di certo il pezzo che mi piace di più del disco. E ora cambiamo decisamente atmosfere e passiamo a un brano tratto da Yo Soy La Tradición, disco del 2018 di Miguel Zenón, sassofonista insieme al quartetto d'archi Spectral Quartet. Il brano che ascoltiamo si intitola Cadenas. Thank you. Thank you. Dopo Cadenas, Day by Day, Gary Bartz al sassofono. Gary Bartz è una leggenda del jazz afroamericano e è stato preso e modellato da Ali Shahid Muhammad e Adrian Young, sono due produttori DJ che stanno lavorando sodo per produrre un sacco di dischi fighissimi dentro un'etichetta che si chiama Jazz is Dead, che vi consiglio di andare a vedere e che appunto fa del prendere grossi nomi della musica, diciamo, del passato e lavorarci insieme producendo cose invece molto contemporanee. 60 minuti sono già quasi finiti, io vi lascio con un ultimo brano, si intitola Il Bosco ed è la prima traccia di Alex Levine Special Adaptations Volume 1, disco uscito per Out Records il 29 aprile, un mix di Italia e Stati Uniti, Andrea Gemmi Catagnoli al sax contralto e Stefano Grassi alle percussioni, insieme a Alex Levine alla chitarra e composizioni, Steven Bogenhall alla batteria, Ben Ralston al contrabbasso. Vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento a venerdì prossimo sempre su Radio Exalge, vi ricordo di controllare che cosa fa Exalge tutti i giorni e di andare a visitare un po' anche gli spazi della radio che sono veri e fisici lì in via Ferrucci 5 e se invece volete parlare con me, casadapaes@gmail.com. Un saluto e a settimana prossima con Casa da Paes Radio Edition.